It is later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce, quasi e mentre nella fabbrica di polli le norme igieniche vengono sistematicamente violate, K e Drago stanno parlando al telefono. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Drago? Sì. Dove sei? Che ne so, sono in mezzo delle galline. Magari qualche altro indizio? Che ne so, è buio? Sì. C'è puzza? Sì. C'è paglia per terra, cacca di gallina? Sì. Vedi delle ventole sul soffitto? Sì. Bene, e magari è anche mezzanotte? Ma sì, ma come fai a sapere tutte queste cose? Oh my goodness. What's the matter? It's midnight. Pronto, Drago? Sì. Mi senti? No, ti sento male, pronto. Drago? Ehi. Ma sei sempre nella fabbrica? Sì. Pronto? Ma mi senti tu o no? Sì, ti sento, ecco. Ma strano. Ma tu dove sei? Io non ho punti di riferimento, sono in mezzo ai polli. Anch'io. Per forza. Pronto? Sì, mi senti? Male. E per forza, la fabbrica di polli è schermata. Cioè, questa in apparenza è una fabbrica di polli, in realtà è una gigantesca gabbia di Faraday. Pronto? Hai sentito? Ma cosa? Ma Drago, non hai sentito che dicevo di questa fabbrica che sembra una fabbrica di polli? Ma come sembra? Perché cos'è, che scusa? In realtà... Drago, preparati. Ma preparati a cosa? Pronto? Drago, preparati perché il colpo potrebbe essere forte. Pronto? Mi senti? Sì, senti, mi sono seduto, puoi dirmi tutto quello che vuoi. Non mi rompo il naso del tucano svenendo la tua rivelazione, tranquillo. Ecco, dove ti sei seduto? Per terra. Ma che schifo. Ma perché? Dai, non è mica così male poi alla fine. Vabbè, allora sei pronto? Pronto. Allora, questa sembra una fabbrica di polli, ma in realtà è una enorme, gigantesca, faraonica e mimetizzata gabbia di Faraday. Signor Faraday! Signor Faraday! Fatemi uccidere! Si calmi, signor Faraday! Fatemi uccidere! Signor Faraday! Signor Faraday! Signor Faraday! Signor Faraday! Pronto, K? Pronto, Drago? Pronto, sono pronto! Bene! Ma cos'è una gabbia di Faraday? Michael Faraday, nato nel 1791, morto nel 1867. Chimico e fisico inglese. In preda al furore della ricerca, si fece chiudere in una gabbia a forma di campana e si posizionò al centro di essa in modo da non toccare con il suo corpo nessuna parte della gabbia, ma solo il pavimento con i piedi. La gabbia venne collegata a un generatore di corrente continua, ma nonostante si vedessero scintille sprizzare tra le maglie della gabbia, Faraday non riportò alcuna bruciatura. La morale di questa storia è che la carica sulla superficie di un conduttore non esercita alcuna azione nei punti interni a esso. Non ho capito niente, K. Per forza. Vabbè, ma allora cos'è che facciamo adesso? Ci parliamo al telefono tutto il tempo? Ma sei tu che hai detto che andavi a scroccare una sigaretta? Io non so dove ti sei cacciato. Va bene, dai, mi sono perso. Bravo. Qui c'è scritto Cucamonga. Come? Cucamonga. Ma dov'è che è scritto? Su un sacco di juta pieno di polistirolo. Cucamonga. Cucamonga. Pronto? Pronto? Metto giù? Metti giù tu? Vuoi mettere giù tu? So, metto giù io? Metti giù tu. Smettila, smettila, metti giù. Smettila, smettila, metti giù. Metti giù, no, metti giù tu. Se non la smetti, metto giù. Se non la smetto, metti giù tu. Se non la metti, smetto giù. Se non la metto, smetti giù tu. Smettila, smettila, metti giù. Smettila, smettila, metti giù. Metti giù, no, metti giù tu. Se non la smetti, metto giù. E ti dismetto, metti giù tu. Se non la smetto, metti giù. Sono qui che aspetto, metti giù tu. Smettila, smettila, metti giù. Smettila, smettila, metti giù. Metti giù, no, metti giù tu. Tu. Tu. Smetti tu. Tu. Smetti tu. Metti giù. Metti giù. Metti giù. Metti giù. Mezzanotte, l'ora di inizio attività per chi lavora quando gli altri dormono. Eroinomani, puttane, spacciatori, papponi, scippatori, ricettatori, ubriachi, maniaci sessuali, pornografi, rapinatori, scassinatori, cacciatori di coca e anfetamine, marchette gay, travestiti, estorsori. Queste sono parole difficili che vogliono dire una cosa sola. I miei clienti. Io a questi miei clienti offro principalmente i panini alla porchetta con tutta la farcitura e le birre medie. I panini fanno venire i sogni brutti e la birra sa di acqua e birra. Eppure nessuno si lamenta, nessuno fa storie sul conto e nessuno litiga mai con me. Nessuno sa del fucile che tengo sotto al bancone e di certo non siamo amici. E allora, perché non mi danno mai fastidio? Perché sono troppo stanchi, come a me. Due cani stanchi, si guardano, ringhiano, ma non si mordono. Questo posto c'ha una luce diversa da quella che esce dalle lame dei loro coltelli. E questi qui vogliono godersela fino in fondo, la luce del mio chiosco. Bersela tutta, insieme all'hot dog. Sono ben accolti. Si riempiono la pancia e sono contenti. Poi, un passo fuori dalla macchia chiara del neon, diventano di nuovo quello che sono. A me queste persone sembrano come delle torce che bruciano di rabbia e che se ne vanno sparate nella notte a illuminare una striscia di sangue. La fabbrica di polli. Drago? Pronto, K? Ma dove sei alla fine? Dai, ma non Drago, possiamo continuare così. Aspetta un attimo, Drago. Non ti sento. Pronto. Drago, dove sei? Drago. Pronto, mi senti? Drago. Pronto. Ma K, eri dietro l'angolo. Lo so, le brutte sorprese sono sempre dietro l'angolo. Fame, eh? Fame. Hai fame, tranquillo, tranquillo. K, è quasi l'ora del mangime. Che ora è? Che cosa succederà adesso? Non essendoci niente in sospeso, la domanda appare vie più oziosa, per cui vi rimandiamo a domani a mezzanotte su Radio 3 per il prossimo inesplicabile allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non chiude. Ladies and gentlemen, good night. Barumel.